我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场，请欣赏齐雷亚的歌剧《阿莱城的姑娘》全剧录音，由罗西卡纳指挥，匈牙利歌剧院演出。 niente, quasi non fossi di lor sangue. Poi se io lontanassi, povero innocente, gli scemi in casa portano fortuna, ma questo in me si sveglia. Ce n'è al villaggio e chiaro come il sole. E non bisogna avreste per trovar moglie al vostro Federico di cercarla in città. Sì, anch'io lo dico. No, Federico è tanto innamorato. Trova il sole e il fiore d'ogni virtù. Siete voi quella fanciulla per tirarmela in casa? Io no, per nulla. Così, senza conoscerla dunque, ad una rosa consentirete salutarla, sposa del figliuol vostro. Oh no! Ti rassicura, odor, come sai sta un mio fratello? Marco, gli occhi qui li ho avuti assai. Ma non per le civette. Oh, lo champagne! Marco, io rocco i fiati del veglio alla sordina. Un occhiato di cuore. Perfino il pel nell'uovo. Fra poco è qui per voi. Ah, Vivetto, sei tu. Buon dì, buon dì. Thank you. bocca son tutto riso. Ma tremi intanto, uomo d'amor. Calmati e parla. Parla, mio cuor. Io ti ho morto. Ecco, io sono soffocato innanzi a tutti. Parlare io primo, oh mamma, la mia bella Arlesiana non ho eguali sulla terra. L'amo, mamma, io so sposa.

piacere cantiamo amici, rendiamo alla bellezza e primi onor, dal nostro petto erompa un solo grido, viva amore la bella Arlesiana, regina di bellezza, regina. La gioventù lieti e felici che amano l'amore arlesiano e sarà rapire cuor che va rapito e Yeah. Vieni con me

Steve! piangere così, perché struggersi tanto? Perché temi di perderti, ti strazia di guardarti. Se il tuo dolor, se altro rimedio, facili, piuttosto che morire, sposa me! No, non è possibile, madre mia! Cosa sia quella donna? Tu pensai? Lo so, ma non vo che tu muoia. Thank you. thank you.

Giorni e sposa con onestà. feroci di gelosia. Così passano le notti, ma tanto inferno ormai sta per finire. Insieme vivremo, e allora ari per bene, ari dritto, o guai che vi sposate. Oh, io la rapisco, se col gregge stanotte tu stai, la pianura percossa udirai da un galoppo terribile. In sella stretta a me, stretta a me, griderò la mia bella, ma il suo grido quel vento ne andrà. Ma veramente l'ami tu, strega, mutia così, la maledetta lesia. Sì, ma finalmente! Il vento, solo il suo bel capriccio. Vieni! Ma sia lui! Resta qui! Lasciami dunque! All'avventura, con l'estranezza per il suo segno, tremor dalla paura, buttando le luci, spero la ferma e facile cuore, mai nella testa solo piede, ma lo stesso sol, lui mi arriva. vita sua. Sventura! Folli, folli,

Sbaciala se ci leverà le zampe del suo cavallo. Forte la stringe, la pace.